Rachel mostrò di volergli obbedire e avviò con me una conversazione letteraria cui contribuì anche Saint Loup. Non mi annoiavo a parlare con lei, perché conosceva benissimo i miei libri preferiti e i suoi giudizi coincidevano spesso con i miei. Avendo però sentito dichiarare da Madame de Villeparisis che non aveva talento, non attribuivo soverchia importanza alla sua cultura. Scherzava con finezza su mille cose e sarebbe stata davvero gradevole se non avesse fastidiosamente affettato il gergo dei cenacoli e degli atelier. Non c'era circostanza del resto in cui non lo sfoderasse e, per esempio, avendo preso il vezzo di dire d'un quadro purché impressionista o d'un brano musicale purché wagneriano: «Ah, è buono!» Un giorno che un giovane amico l'aveva baciata sull'orecchio e, lusingato dal brivido che lei simulava, si fingeva confuso, lo rassicurò: «Ma sì, come sensazione direi che è buono!» Ma ciò che soprattutto mi stupiva era che certe espressioni tipiche di Robert, il quale d'altronde le aveva forse assimilate dagli amici letterati di Rachel, lei le usasse davanti a lui e lui davanti a lei, come se si trattasse di un linguaggio indispensabile, senza percepire l'inconsistenza di un'originalità che appartiene a tutti. Mangiando, Rachel era tanto maldestra con le mani da far supporre che dovesse muoversi con notevole goffaggine anche sulla scena. Ritrovava destrezza soltanto nell'amore, grazie alla commovente prescienza delle donne che amano a tal punto il corpo dell'uomo da indovinare all'istante che cosa possa far più piacere a quel corpo così diverso da loro. Mi ritirai dalla conversazione quando si venne a parlare di teatro, perché in questo campo Rachel era troppo caustica. È pur vero che, con tono di commiserazione e contraddicendo Saint Loup, il che provava come fosse lei ad attaccarla spesso in sua presenza, prese le difese della Berma dicendo: «Oh no, è una donna notevole. Quello che fa, è evidente, non ci colpisce più, non coincide assolutamente più con le nostre ricerche, ma bisogna collocarla nel suo tempo, le dobbiamo molto. Ha fatto cose buone, sai? E poi è una donna tanto generosa, un cuore grande così. Non le piacciono, naturalmente, le cose che interessano a noi, ma oltre a un viso abbastanza emozionante, ha anche avuto una bella qualità di intelligenza». Le dita non forniscono a tutti i giudizi estetici lo stesso accompagnamento. Se si tratta di pittura, per indicare che un pezzo ben riuscito ha impasto grasso, ci si limita a far sporgere il pollice, ma per la bella qualità d'ingegno ci vuole qualcosa di più. Occorrono due dita, o meglio due unghie, come se si dovesse togliere un granello di polvere. Ma, a parte questa eccezione, l'amante di Saint Loup parlava degli artisti più noti con un tono di ironia e di superiorità che mi indisponeva, perché credevo, e in questo mi sbagliavo, che fosse lei ad essere inferiore. Rachel si rese benissimo conto che io dovevo considerarla un'artista mediocre e tenere invece in gran pregio quelli che lei disprezzava. Ma non se ne risentì, perché in un grande talento non ancora riconosciuto, com'era allora il suo, e per quanto sicuro di se stesso, c'è sempre una certa umiltà per cui ci si attende un trattamento commisurato non alle proprie doti nascoste, ma alla posizione acquisita. Un'ora dopo avrei visto l'amante di Saint Loup mostrare, a teatro, profonda deferenza nei confronti degli stessi attori che aveva giudicato con tanta severità. Così, sebbene il mio silenzio dovesse lasciarle pochi dubbi, non per questo mancò di insistere perché la sera si pranzasse insieme, assicurando che mai conversazione le era tanto piaciuta come la mia. Anche se non eravamo ancora a teatro, dove saremmo andati dopo colazione, era come se ci trovassimo in un ridotto illustrato da vecchi ritratti della compagnia, a tal punto le facce dei maître ricordavano fisionomie il cui stampo sembra essersi perduto insieme a un'intera generazione di attori eccezionali. Avevano un aspetto da accademici anche, Fermo davanti a una credenza, uno di loro esaminava delle pere con l'espressione e la curiosità disinteressata di un jussieu. Altri, accanto a lui, gettavano sulla sala le occhiate di fredda curiosità che i più prestigiosi membri dell'Istituto gettano sul pubblico mentre si scambiano battute di cui non si coglie nemmeno una parola. Erano facce popolarissime fra i frequentatori abituali del ristorante, ma costoro si indicavano l'un l'altro un nuovo personaggio, cui il naso rugoso e il labbro mellifluo davano un'aria pretesca, e che aveva appena preso servizio, e ciascuno esaminava con interesse il nuovo eletto. Ben presto, però, forse perché Saint Loup si allontanasse, lasciandola sola con Aimé, Rachel si mise a strizzare l'occhio a un giovane agente di cambio che mangiava, in compagnia di un amico, a un tavolo vicino. «Cécette, ti prego, non guardare così quel giovanotto», disse Saint Loup, sul cui volto gli esitanti rossori di poc'anzi si erano concentrati in una dube insanguinata che dilatava e incupiva i tratti distesi del mio amico. «Se devi proprio coinvolgerci nello spettacolo, preferisco mangiare per conto mio e andare ad aspettarti a teatro». In quel momento avvertirono in me che un signore lo pregava ad andare a parlargli allo sportello della sua carrozza. Saint Loup, sempre inquieto e temendo che potesse trattarsi di un'ambasciata amorosa da trasmettere alla sua amante, guardò attraverso la vetrata e scorse in fondo al suo coupé, le mani infilate in un paio di guanti bianchi a righe nere, un fiore all'occhiello, il barone di Charlus. «Lo vedi?» mi sussurrò Robert. «La mia famiglia mi fa pedinare persino qui. Ti prego, io non posso farlo, ma tu che conosci bene quel maître e ti può da tradirci, ne sono sicuro, chiedigli di non andare alla carrozza, di mandarci, ecco, un cameriere che non mi conosca. Se diranno a mio zio che non mi conoscono, so come è fatto, non entrerà a controllare, detesta i posti come questo. Comunque è disgustoso che un vecchio donaiolo par suo e che ancora non ha disarmato mi predichi continuamente la morale e venga qui a spiarmi». E me, ricevute le mie istruzioni, mandò un suo sottoposto con l'incarico di dire che il maître non poteva muoversi e, se avessero chiesto del marchese di Saint Loup, che lui non lo conosceva. La vettura ripartì. Ma l'amante di Saint Loup, non avendo sentito quello che ci eravamo detti sottovoce e credendo che avessimo parlato del giovanotto cui Robert le rimproverava di fare l'occhiolino, diede in escandescenze. «Ah, benissimo! Tocca a quel giovanotto adesso! Sei gentile a mettermi in guardia! Ti assicuro che è una delizia mangiare in queste condizioni! Non fate caso a quel che dice!» aggiunse rivolgendosi a me. «È un po' fissato, e se dice queste cose è più che altro perché crede che mostrarsi geloso faccia stile, faccia gran signore!» E cominciò con i piedi e le mani a dar segni di nervosismo. «Ma Cécette, è per me che è la cosa più sgradevole! Ci stai rendendo ridicoli agli occhi di quel signore! Lui penserà che tu gli stia facendo delle avance e mi sembra un individuo della peggior specie! A me, invece, sembra affascinante! Intanto ha degli occhi stupendi e poi ha un modo di guardare le donne. Si capisce che devono piacergli. Sta zitta, aspetta almeno che me ne sia andato se sei così pazza!» esclamò Robert. «Cameriere, la mia roba!» Ero incerto se andare o no con lui. «No, ho bisogno di restare solo», mi rispose nello stesso tono in cui si era rivolto all'amante e come se fosse arrabbiato anche con me. La sua collera era come una frase musicale sulla quale, in un'opera, si cantano parecchie battute, affatto diverse l'una dall'altra, secondo il libretto, per significato e carattere, ma fuse, grazie ad essa, in un unico sentimento. Uscito Robert, la sua amante chiamò Aimé e gli chiese alcune informazioni. Poi volle sapere come lo trovavo. «Ha uno sguardo divertente, no? Mi piacerebbe, vedete, cercare di scoprire... cosa pensa? Averlo al mio servizio, portarlo in viaggio con me. Ma niente di più. Se fossimo costretti ad amare tutte le persone che ci piacciono, sarebbe abbastanza atroce, in fondo. Robert ha torto a farsi certe idee. Sono tutte cose che cominciano e finiscono qui, nella mia testa. Robert non dovrebbe assolutamente preoccuparsi. Continuava intanto a fissare Aimé. Ecco, guardate che occhi neri. Vorrei sapere cosa c'è dietro. Poco dopo, vennero a dirle che Robert l'aspettava in una saletta riservata, dove, passando da un'altra porta, era andato a finire la colazione senza riattraversare il ristorante. Rimasi solo. Poi Robert fece chiamare anche me. Trovai la sua amante che, distesa su un sofà, rideva sotto le carezze, i baci che gli le prodigava. Bevevano champagne. «Buongiorno voi», gli disse lei, ripetendo questa formula appresa di recente che le sembrava il vertice della tenerezza e dello spirito. Avevo mangiato male, mi sentivo a disagio e mi rammaricavo, senza che le parole di Le Grandin c'entrassero in alcun modo, al pensiero che stavo cominciando nella saletta di un ristorante e avrei concluso dietro le quinte di un teatro quel primo pomeriggio di primavera. Dopo aver guardato l'ora per controllare se non fosse in ritardo, Rachel m'offrì dello champagne, mi porse una delle sue sigarette orientali e staccò per me una rosa dalla sua camicetta. Mi dissi, allora, non devo avere troppi rimpianti per la mia giornata. Le ore trascorse accanto a questa giovane donna non sono sprecate se ho ricevuto da lei qualcosa di delizioso e impagabile come una rosa, una sigaretta profumata e una coppa di champagne. Mi sembrava, ragionando così, di dotare d'un carattere estetico e in tal modo giustificare, salvare quelle ore di noia. Forse avrei dovuto pensare che quello stesso bisogno di trovare una ragione capace di consolarmi della mia noia dimostrava come non avessi provato nulla d'estetico. Quanto a Robert e alla sua amante, si sarebbe detto che non serbassero memoria alcuna del battibecco di pochi istanti prima, né del fatto che io vi avessi assistito. Non vi allusero più, né cercarono di giustificarlo, e tantomeno parvero darsi pensiero del suo contrasto con il loro attuale comportamento. A forza di bere champagne in loro compagnia, cominciai a provare un po' dell'ebbrezza che si impadroniva di me a Rivebelle, anche se probabilmente non proprio la stessa. Non soltanto ogni genere d'ebbrezza, da quella che provocano il sole o il viaggiare a quella della stanchezza o del vino, ma ogni grado d'ebbrezza, cui si dovrebbe attribuire una quota diversa come ai fondali marini, mette a nudo dentro di noi esattamente alla profondità alla quale si trova un uomo particolare. La saletta scelta da Saint-Loup era piccola, ma l'unico specchio che la decorava era tale da rifletterne, all'apparenza, una trentina d'altre in un gioco infinito di prospettive, e la lampada elettrica posta in cima alla cornice doveva, di sera, quando veniva accesa, seguita dalla processione di una trentina di riflessi identici, suggerire al bevitore, anche al bevitore solitario, l'idea che lo spazio si moltiplicasse attorno a lui contemporaneamente alle sensazioni esaltate dall'ebbrezza e che, segregato in quel minimo spazio, egli regnasse tuttavia su qualcosa di ben più esteso nella sua curva indefinita e luminosa d'un viale del Jardin de Paris. Ora, poiché ero io stesso, in quel momento, quel bevitore, tutto a un tratto, cercandolo nello specchio, lo vidi, orrendo, sconosciuto, che mi guardava. La gioia dell'ebbrezza era più forte del disgusto. Per allegria o per sfida, gli feci un sorriso cui rispose. E a tal punto mi sentivo dominato dall'effimera potenza dell'istante, in cui le sensazioni hanno tanta forza, che a rattristarmi, forse, fu soltanto il pensiero che l'indecente me stesso, di cui avevo scorto il viso, poteva essere al suo ultimo giorno e che non avrei mai più incontrato quello straniero nel resto della mia vita. A Robert Spiaceva solo che non volessi brillare di più agli occhi della sua amante. «Andiamo! La storia di quel signore che ha incontrato stamattina e che riesce a conciliare snobismo e astronomia, perché non gliela racconti? Io non la ricordo bene!» E sbirciava Rachel con la coda dell'occhio. «Ma, amico mio, non c'è nient'altro da aggiungere a quello che hai già detto. Sei un disastro! E allora raccontale di Françoise e Champs-Élysées, le piacerà da morire!» «Oh sì, Bobby m'ha tanto parlato di Françoise!» E, preso Saint-Lieu per il mento, lo attirò verso la luce, ripetendo, per mancanza d'inventiva, «Buongiorno voi!»